Allora, dovremmo esserci dall'altra parte del telefono, dovremmo essere collegati con la Val di Susa. Pronto? Pronto, mi sento malissimo comunque. Allora, vediamo un po' se possiamo aggiustare l'audio nel frattempo. Intanto, se ci senti, comunque ti chiediamo come stanno andando le cose, soprattutto se puoi farci un breve resoconto di quanto successo ieri sera a partire dalle 10. E sappiamo che tu sei arrivato proprio ieri lì in valle, insomma, quindi raccontaci quello che hai potuto vedere. Ma sì, allora innanzitutto qui il campeggio si sta popolando un po' il fine settimana, un po' insomma sta tenendo diversa gente da Genova al termine delle manifestazioni, insomma. Quindi il campeggio, che si trova in un'area privata che è stata affittata regolarmente dai comitati NoTav, sta riempendo di compagni e compagne di tantissime città della regione, ma anche di tantissime città. E ieri alle 10, al termine comunque delle attività, diciamo, quotidiane del campeggio, è iniziata al calare della notte praticamente l'abbattitura. Il campeggio si trova proprio a ridosso della centrale, di uno degli accessi della centrale elettrica. È presidiato dalle forze dell'ordine, le strade poi portano alla Maddalena. Dall'alto questo panorama si vede, è abbastanza evidente, abbastanza chiaro. L'accesso alle strade della centrale sono chiuse dalle interriate e dai gli sbarramenti, quelli di cemento armato che vengono utilizzati anche per le autostrade, e alle 10 è cominciata appunto la battitura su guard rail e sulle reti. E a un certo punto, però, nel momento in cui la pressione delle reti stava aumentando e alcuni, diciamo così, tra l'altro gruppi, insomma, hanno cominciato a salire sui sentieri, è iniziato un fortissimo lancio di lacrimogeni e soprattutto tanti idranti. Diciamo che la vicinanza del campeggio con l'area, diciamo così, occupata militarmente è pochissima, e quindi il lancio di lacrimogeni è stato all'interno del campeggio. Ci sono state almeno una macchina danneggiata e parecchia apprensione, soprattutto per la presenza di molti bambini e delle tende. C'era il terrore che prendessero fuoco. Insomma, questa cosa è andata avanti fino a ben oltre la mezzanotte, con un'area che era diventata completamente irrespirabile, insomma. Dopodiché la situazione si è, diciamo così, si è calmata, insomma. Ci sono stati fino a notte fonda delle piccole azioni di disturbo nei confronti delle forze dell'ordine, ma a linea di massimo poi c'era una festa, quindi insomma la situazione si è tranquillizzata. Senti, per oggi cosa è previsto? La cosa, diciamo così, comunque la grossa partecipazione di persone, insomma, è una cosa abbastanza importante. Stamattina comunque una delle tante attività era una passeggiata in montagna, cioè in questa settimana, diciamo così, il programma entra un po' nel vivo. Ci sono anche delle presentazioni di video, dei dibattiti, eccetera. Senti, per oggi cosa è previsto? Sulla stampa dà notizia di un presenza su invito dei NoTav di alpini contrari al treno ad alta velocità. Sì, allora innanzitutto una cosa per quanto riguarda il programma preciso, insomma, io sono arrivato ieri notte dopo la manifestazione di Genova, quindi ho raccolto un po' di notizie anche per poter cominciare a fare le corrispondenze. E sì, se voi avete visitato, chi ha visitato il sito notav.info nei giorni scorsi, facevano vedere moltissime interviste ad ex alpini che commentavano, insomma, l'arrivo di questi mercenari, come li chiamavano loro nelle interviste. È previsto nel corso del tardo pomeriggio sera, dopo la consueta assemblea, diciamo così, di gestione del campeggio, appunto questo raduno di ex alpini, insomma, della valle, che verranno un po' qui manifestare il loro disappunto. Credo che tra l'altro nel paese invece di Giaglione c'è un'iniziativa organizzata dai collettivi femministi, un'iniziativa separata che mi sembra aver capito si chiama La Notte delle Streghe, dove invece sono le compagne, le donne della valle, insomma, prenderanno l'iniziativa. Però ancora di questa cosa non sono sicuro, magari ve ne potrei parlare poi nel corso della nottata se ci saranno ancora dirette, insomma. Bene, e diciamo questa cosa degli alpini, per spiegarlo insomma a chi ci ascolta, è perché viceversa è forte la presenza di un contingente alpino, no, nella valle? Sì, ecco, diciamo che è un po', diciamo così, la risposta popolare all'invio del contingente alpino, il quale, tra l'altro, visto che l'hai ricordato, è già entrato in azione ed è anche abbastanza inquietante, insomma, cioè il loro compito è quello di pattugliare alcuni sentieri della montagna, soprattutto nel pomeriggio, e lo fanno in un modo molto, diciamo, diverso ovviamente dalle forze dell'ordine, tra virgolette anche in un modo particolarmente professionale, insomma, senza arroganza, però con una efficienza, senza arroganza e senza la tracottanza invece dei loro colleghi imboscati delle forze dell'ordine, però con una professionalità agghiacciante, nel senso che ci sono stati la giornata di ieri dei compagni intercettati su un sentiero e si sono ritrovati questi soldati all'improvviso, che senza che li hanno sentiti, insomma, telecamere alla mano, identificati, ripresi tutti gli abiti, le scarpe, i tatuaggi, ovviamente poi è arrivata anche la Digos, sono arrivati anche i carabinieri, insomma, che eccetera, per cui è una presenza seria. Senti, sono ovviamente armati questi alpini, sì. Armati di tutto punto, ovviamente, però insomma, però svolgono un ruolo che è più probabilmente di controllo, di intercettazione, di dissuasione, è più di controllo del territorio, insomma. Sì, sono armati, però per esempio ci raccontavano qui proprio ieri sera appena arrivato che quando hanno fermato questi compagni hanno anche redarguito dei gruppi di poliziotti, insomma, che erano saliti su con una certa arroganza, insomma. È proprio una, chiamiamola, insomma, una presenza forte, importante, che si fa sentire, molto efficace. Ripeto, questi compagni sono stati pare filmati dalla testa ai piedi, ogni centimetro del loro corpo e ogni abbigliamento, insomma, che c'avevano addosso. Quindi, il fatto stesso che non hanno subito ingiurie, cosa che invece è avvenuta con un'altra gente fermata dalle guardie, insomma. Sì, questo lo capisco, penso molto più professionali, molto più inquietanti, direi di sì, non solo per il tipo d'armamento, immagino che sia un armamento da guerra vero e proprio, insomma, queste sono forze armate, ecco, però anche per il fatto che girando con telecamere, che come dici, riferivi tu, insomma, riprendono non solo i volti ma identificano proprio segni particolari del corpo come tatuaggi, abbigliamenti e altre cose, insomma, questo pone insomma degli interrogativi perlomeno, no? Quindi comunque cioè la sensazione è strana, nel senso che comunque ovviamente è un campeggio come tanti ne abbiamo fatti, quindi si ritrovano anche quelle stesse sensazioni e quelle stesse caratteristiche. Dopodiché però c'è questa sensazione che andando in alto, quindi salendo su una collina, salendo su una strada, salendo su un sentiero, invece questa sensazione di controllo militare è assolutamente presente e inquietante, insomma. Direi proprio di sì. Si sente, credo, adesso anche l'elicottero che da oggi ha ricominciato a girare, ci sono appunto queste squadre di alpini che girano per i sentieri circostanti alla montagna, ci sono i posti di blocco. Tra l'altro i posti di blocco stanno creando tanti problemi, non tanto a noi quanto proprio alle persone, insomma. Siamo saliti prima al paese di Chiomonte a comprare delle cose e c'erano delle persone che stavano spostando le loro, per esempio, cantine, perché ormai non possono più accedere alle loro vigne dove hanno le baracche, perché vengono fermati in continuazione, insomma. Senti, un'ulteriore cosa che volevamo capire meglio, deriva tra l'altro da alcune informazioni che ci sono state date da diciamo componenti dei comitati NOTAV venuti a Roma in occasione di una bella iniziativa che si è tenuta l'altra sera qui al Forte Prenestino, con presentazione di alcuni contributi video anche della giornata del 3 luglio. In quell'occasione è stata già lanciata una data che sembra possa insomma comunque divenire altrettanto importante, cioè per il 30 di questo mese, un corteo che dovrebbe avere valenze non sappiamo ancora se nazionali, ma insomma sicuramente credo ci si sta muovendo per far assumere sì, a questa scadenza. Lo dicevano prima, il 30 è la giornata di chiusura ufficiale del campeggio, quindi si farà una grossa iniziativa. Non ne conosco i dettagli, nel senso che ancora sono arrivato da poco, però c'è sicuramente parlavano già di questa manifestazione da Giaglione fino al presidio della Maddalena, dove c'è il presidio insomma storico negli ultimi anni insomma dei compagni e delle compagne e dei comitati insomma soprattutto. Bisogna dire una cosa: la presenza al campeggio, il campeggio sta ricevendo un sacco di visite da parte delle persone insomma dei paesi circostanti, insomma, quindi c'è anche una bella relazione tra appunto diciamo così tra il popolo della Valsusa e insomma i compagni e le compagne che vengono anche da altre città insomma che sono venuti qui a solidarizzare, a vedere anche un po' che succede. Questa è una cosa abbastanza interessante insomma, proprio per descrivere anche un po' il processo. Il 30 c'è questa manifestazione che però è preceduta da tutta una serie di iniziative. Domani c'è un dibattito sul lavoro, poi verrà presentato credo uno degli stessi video che sono andati al Forte Prenestino venerdì scorso insomma, e tante altre cose di cui però insomma magari vi parlerò nelle altre corrispondenze. Va bene, allora se poi sarai ancora in zona magari ci risentiremo nei prossimi giorni e quindi possiamo chiudere qui questo collegamento. Va bene, rimanete un attimo in privato? Sì, d'accordo.